Buonasera a tutti, salve, trasmettiamo qui da Radio Cerrano Web. E Radio Cerrano Web questa sera con le schegge impazzite del sottoscritto di Karl Barthelboom, che lo scorso 4 aprile ha compiuto gli anni. Ma io voglio, a proposito di questa cosa, voglio naturalmente salutare tutti i miei amici di Facebook, nel senso che io su Facebook uso la mia pagina esclusivamente per lavoro, quindi i miei connotati, diciamo, su Facebook, o i connotati di Karl Barthelboom, sono tutti connotati falsi. Quindi io vi ringrazio per gli auguri di cui mi avete inondato di auguri, però insomma io non compio gli anni il 4 di aprile. Però insomma, io dicevo, secondo me va bene lo stesso, quindi è un bel segno d'affetto da parte di tutti voi, quindi io li accetto tutti gli auguri che mi avete mandato. Saluto subito Enzo, il maestro Enzo, che si è messo all'ascolto, e anche perché stasera credo che Enzo sarà interessato dalla trasmissione, perché dedicheremo questa oretta e mezza e qualcosa, vedremo un po' come andrà, a un grosso artista, un artista che naturalmente ha avuto i suoi, non dico alti e bassi, ma comunque la sua evoluzione. Noi cercheremo un po' di seguire, io vi racconterò un po' la sua evoluzione. Vi avverto, non ho scelto tutti i brani come di solito faccio, nel senso che brani che poi in qualche modo testimoniano i periodi in cui gli autori si sono cimentati, però insomma ho scelto quelli che mi piacciono di più. Stiamo parlando di Ivano Fossati. E Ivano Fossati è un artista che, insomma, le persone a cui piace la musica italiana sicuramente conoscerà, fa parte del cosiddetto cantautorato, ed è un cantautore che appartiene a una scuola benemerita del cantautorato italiano, e cioè quella genovese. Infatti lui è nato a Genova 66-67 anni fa. E quindi, insomma, Fossati è un po' un artista a tutto tondo, perché è un polistrumentista, è un cantautore, come vi dicevo, è un compositore, anche uno di quelli che ha scritto canzoni per tantissima altra gente, perché appunto stiamo parlando di un autore stimatissimo da parte dei suoi colleghi. È uno di quelli che però ha iniziato con quel progressive che in quel periodo, stiamo parlando degli anni 60, andava tantissimo di moda, e diciamo anche che con il suo gruppo, col gruppo che lui fondò all'inizio, stiamo parlando dei Delirium, aprì un po' la strada a tutta un'altra serie di gruppi poi progressive italiani, come le Orme, addirittura anche ebbe una grossa partecipò anche a una serie di colonne sonore, insomma, in cui c'era anche lo zampino di Bakalov, di cui vi parlavo un po' di tempo fa, un autore argentino che però si trasferì subito in Italia, che poi è diventato famoso come musicista di colonne sonore, ma di musicista poliedrico anche lui. E quindi insomma stiamo parlando di uno di quelli che ha fatto un po' da apripista per poi una serie di musicisti, anche gruppi italiani. Quindi noi ascoltiamo questo autore nella sua prima incisione, e infatti già potete un po' assaporare quelle caratteristiche progressive di cui vi parlavo prima. Lo ascoltiamo in questo preludio del primo disco, e appunto dei Delirium, che porta il nome di Dolce Acqua. Thank you. E stiamo parlando del 1971, questo è un LP, come si diceva all'epoca, del 1971, un 33 giri Dolce Acqua, a cui noi abbiamo estratto il preludio. Ma in effetti, Fossati viene in qualche modo reclutato proprio lo stesso anno da questo gruppo, che inizialmente si chiamava i Sagittari e poi si è trasformato nei Delirium. Un po' tutti questi musicisti, comunque, tra cui anche De André, altri autori e cantautori del genovese, si ritrovavano un po' in questi in un locale che si chiamava Revolution, un locale che adesso non esiste più, e quindi in quel locale, un po' quello che faceva il Folk Studio a Roma, insomma, è un locale in cui venivano spesso, si incontravano musicisti, c'erano una serie di jam session che poi si tramutavano magari in gruppi estemporanei, e era un qualcosa che naturalmente una sorta di fucina che poi veniva, si trasformava e che poi dava sfogo alla creatività e alla musicalità di tantissime persone. Quindi Fossati partecipa a questa serie di jam session in questo locale, poi insomma, si incontra con questi dei Sagittari e dà vita a questi Delirium. Come avete potuto ascoltare, insomma, è un tipo di musica che in quel periodo, negli anni 70, andava molto di moda, e come vi avevo detto, questo gruppo fa un po' da apripista per una serie di altri gruppi come Le Orme, Gli Area, Il Banco del Mutuo Soccorso, ma la stessa premiata Forneria Marconi, PFM, con questo largo uso di flauti, che poi, insomma, veniva un po' anche copiato dai Jethro Tull, nel senso che si apprendeva un po' anche dalla musica che facevano gli Jethro Tull, ma gli stessi Genesis, insomma, in Italia si apriva anche questo filone, e quindi il nostro Fossati nel 71 diede vita a questo gruppo, era un po' il leader, un po' la voce, però io vi ho fatto ascoltare questa Dolce Acqua, ma il primo 45 giri di Fossati ve lo facciamo ascoltare adesso. Jerusalem, Beh, in effetti, come avete potuto sentire, no, questi esordi di Fossati sono un po' legati, sì, dicevamo, alla musica progressiva, ma anche a queste tematiche quasi bibliche, no? Quasi religiose, in effetti. E questo era il primo 45 giri che poi aveva preceduto il Dolce Acqua, che era invece il primo 33 giri da cui abbiamo estratto prima il preludio, e quindi in qualche modo Delirium, Fossati erano tutte persone che stavano ricercando una propria strada. Un po' questo è successo a tutti i grossi autori, e in qualche modo anche bisogna dire che inizialmente ci si appoggia anche a fenomeni culturali e musicali più ampi che magari arrivano dall'Inghilterra o dall'America. È quello che avevano fatto i Delirium, e poi a loro volta gruppi che si erano appoggiati anche a loro. Ma questo brano, diciamo, Osanna, partecipò con questo 45 giri, loro parteciparono a un festival che andava di moda di Viareggio, ed ebbero un buon successo. Ma il vero successo, il vero successo, la notorietà tra virgolette, arrivò invece con questo brano che vi facciamo ascoltare adesso, che sicuramente molti di voi, forse quelli un po' più datati, si ricorderanno. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. sarebbe fin troppo facile fare la battuta del tipo fu un vero delirio questo brano, nel senso che fu un brano veramente che aprì le porte del successo ai Delirium e partecipò a Sanremo del 1972. E non solo, ma il vero, diciamo, il vero boom poi arrivò nel sempre quell'anno, perché i Delirium parteciparono anche a un disco per l'estate con un altro brano che porta il nome di Aum. Detto questo, salutiamo chi ci sta ascoltando: Piero Figliani, Melchiorre Ricci, Vincent Cassel che mi sta guardando, mi sta ascoltando, e quindi niente, ricominciamo questa carrellata. Dicevo, la storia poi di Fossati che lascia i Delirium si intreccia con quella di un altro importante musicista italiano che porta il nome di Oscar Prudente, e insieme fanno un disco. È anche vero che diciamo che questa fase iniziale, come vi dicevo anche prima, è un periodo in cui Fossati cerca di trovare una strada anche sotto il profilo non solo compositivo musicalmente, ma anche sotto il profilo dei testi, ecco. Quindi si comincia anche a guardare attorno, a fare delle citazioni, e con il grande mare che avremmo attraversato, che è poi il suo primo LP insieme a Prudente, comincia a farsi largo, no? nella poetica di Fossati, questa tematica del viaggio, che poi tra parentesi questa tematica del viaggio rimane nella poetica di Fossati fino ai più recenti lavori. C'è da dire tra parentesi che poi Ivano Fossati è uno di quei cantautori che vivendo appieno il presente non si è mai tirato indietro nell'affrontare argomenti di carattere sociale anche, e sempre però legati sto ridendo perché Vincenzo mi raccomanda, mi dice: mi raccomando, sai che Fossati è uno dei miei preferiti, verrò la prossima puntata sul Fossati più intimista. Ma chi lo sa, se anche stasera vedremo un Fossati, ascolteremo un Fossati intimista, perché poi ho scelto un po' di brani sull'amore, perché un'altra tematica importante di Fossati è quella dell'amore, però stavo parlando adesso della tematica del viaggio, quindi il viaggio come scoperta, un po' tra virgolette omerico, no? Un po' l'Ulisse che personifica l'uomo, e che la vita dell'uomo quindi è improntata al viaggio, alla conoscenza, allo spingersi oltre i limiti. Questa è una caratteristica che questa è una linea, diciamo, poetica che ha caratterizzato tantissimo il lavoro di Fossati, e poi ritroviamo anche in lavori, come vi dicevo, più recenti, però legata anche a problematiche più recenti come quella dell'immigrazione, quindi anche del viaggio inteso come migliorare la propria vita, come avere un qualcosa da scoprire, ma soprattutto una vita migliore da fare, che è un po' quello che spinge, come diceva il poeta, ci si muove soprattutto, anzi quasi esclusivamente, per amore o per una condizione, trovare una condizione migliore. No, io stavamo parlando un po' i due Carli, e si stava parlando un po' di comunicazione. Adesso questa cosa magari non c'entra molto con la tematica di questa sera, che è appunto Ivano Fossati, però insomma c'entra perché. Relativamente, perché comunque noi stiamo trasmettendo da una web radio che è una frontiera nuova della comunicazione. Ad esempio c'è Carlo che ha lavorato su una web radio company, cioè delle aziende che hanno capito che una radio interna in qualche modo è importante ormai, ed è anche un mezzo di comunicazione a costo zero. Magari se Carlo adesso apre il microfono ci racconta un po' questa esperienza senza nominare. Oh, se la vuoi nominare, non è che ci freghi più di tanto, voglio dire, non è che abbiamo obblighi di. Però, insomma, si stava parlando appunto di come sia importante questo megafono internettiano che ormai che la radio ti offre, vero Carlo? Eh sì, Carlo, sono onorato innanzitutto di essere stato contattato da una grande azienda che è abruzzese locale, che ha capito l'importanza anche di una web radio aziendale Ecco. e dell'interfacciarsi con il mondo intero, esportando, facendo conoscere il proprio prodotto ad un costo ridotto, che è quello della web radio. Quindi si è aperto anche questo fronte per Radio Cerrano, grazie alle nostre competenze, grazie anche alla nostra cocciutaggine, soprattutto all'aggiornamento grandissimo, matto e disperatissimo che abbiamo dovuto fare. Con i computer, con l'informatica, ma spinti da una passione grandissima. Questa è una passione antica che naturalmente noi stiamo cercando, tra virgolette, di aggiornare, ma anche di trasmettere. È un po' il compito. Noi siamo nati comunicatori e probabilmente moriremo comunicatori. Ed è anche vero che le frontiere della comunicazione si sono ormai allargate in una maniera pazzesca. Ecco, e la web radio ne è un esempio, forse l'esempio più una nuova frontiera che poi ha delle radici antiche, perché affonda appunto le radici in quelle che erano le radio locali o le radio appunto le radio libere. Qualcuno dice parcellarizza un po' troppo e quindi diventa un po' troppo mononucleare. Ma io credo che invece la forza sia proprio questa, come noi più di una volta abbiamo ripetuto in questa radio, che tra parentesi, ripeto, questa radio noi l'abbiamo legata al territorio, l'abbiamo legata alla Torre di Cerrano, quindi a un'area marina che è fatta di 7 km di costa. Ma è voluta questa cosa, perché altrimenti non ci sarebbe stato alcun megafono per questo territorio. Forse siamo un po' troppo sognatori noi, perché ci poniamo come vero megafono di tutta l'area, però noi ci crediamo a questa cosa. Ecco, magari poi arriva l'azienda che ci crede anche, le persone ci stanno credendo. Perché? Perché comunque sentono che il territorio è in qualche modo ha una voce. Sì, è rappresentato, ecco. L'altra sera stavo ascoltando ad esempio un programma di Piero Angela, anzi, non di Piero Angela, di Alberto Angela. Stava facendo un uno speciale sull'Andalusia. E a un certo punto sono saltato sulla poltrona, perché parlando di una città, della città, c'è una città archeologica vicino a Siviglia, a 3 chilometri di Siviglia, che si chiama Italica. Se qualcuno si trova da quelle parti, vada a vedere questa città, perché sono i resti di una grossissima città, quindi fondata da Scipione l'Africano, che inizialmente Scipione fondò per dare riposo ai suoi legionari che combattevano le famose guerre puniche, quindi contro Cartagine. E poi naturalmente che successe che come gran parte delle città romane, l'insediamento diventò proprio un vero e proprio insediamento non solo militare ma anche amministrativo e politico, quindi per il controllo del territorio, importando anche persone dalle province romane o dalla Roma stessa. E molti cittadini romani di quest'area, perché in quest'area dove stiamo noi erano cittadini romani, si trasferirono ad Italica, tant'è che ad Italica nacquero due imperatori romani, Traiano e Adriano. E Alberto Angela, nel citare questa storia, nel citare anche Adriano, ribadì un'evidenza storica, cioè diceva: Adriano nacque qui da un gruppo, da una stirpe o da nonni o da genitori che proveniva da un'area che ricorda naturalmente il Mar Adriatico, perché Adriano nacque, i parenti di Adriano nacquero in una cittadina posta sulle rive dell'Adriatico. Ora, questa cosa, e quindi stiamo parlando di Atria Picena, non Adria nel Veneto, e stiamo parlando della nostra area, quindi dell'area della Torre di Cerrano, dell'area di quest'area qui. Stiamo parlando quindi di un qualcosa che ha fondamenti storici, perché comunque poi Angela ha ripreso Strabone, che è lo storico romano. Ecco, questa semplice notizia che poi è arrivata in TV, però io stasera la sto raccontando proprio per far capire di come poi si sviluppa una comunicazione territoriale, perché è importante anche essere a conoscenza di quello che si è per poter poi comunicare meglio. Io mi scuso per questa parentesi storico-culturale e ritorniamo invece alla musica di Ivano Fossati. Anna di primavera andava via, un vestito solo andava via, via, via. Io mi feci avanti, dissi: vuoi viaggiamo insieme, so che vuoi e che se insiste lo farai. E Anna che in primavera andava via, felicità o malinconia, non disse niente ma non disse no. Prese la borsa delle sue collane, poi con la più lunga mi sposò. Così che 3 città più giù dovremmo non fermarci più, mi disse, in mezzo a 4 case nel sud, più giù di qui dove si arriva, forse in Africa e in America, posti dove vanno tutti ormai. Io compravo birra e trafficavo in auto usate, pianoforti, andati liri e stoffa da blue jeans. Dai che lì il mercato mi era ostile, ma risposi: non mi muovo di qui. L'autunno scivolava via, cantava per malinconia, canzoni d'altre gialle mie non più. Dall'autostrada lei guardava il mare, che cercasse non lo seppi mai più. ascoltava più, parlava poco, era giù, giù, giù. Lui da un'altra stanza di motel le disse: vuoi che stiamo insieme? So che puoi, che vuoi, se insisto lo farai. E Anna che in primavera andava via, felicità o malinconia, non disse niente, ma non disse no. Prese la borsa delle sue collane, poi con la più lunga lo sposò. Oh no, oh no, oh Anna, no, oh no, oh no, oh Anna, no. Ad un orecchio allenato non sfuggirà il cambio un po' di ritmo, no? In questo Anna di Primavera. Anna di Primavera è un brano che fa parte del quarto LP di Fossati, che è La Casa del Serpente. E quindi in questo LP noi già possiamo notare una sorta di conversione, no? Verso il rock, verso, diciamo, una linea rock o pop. Ecco, questa è un po' più pop come canzone, un po' ammiccante, un po', come direbbe il mio amico Emidio, commerciale. Ed è un, però è una anche qui si può notare in tutto l'album, però non in questo brano in particolare, che, diciamo, è il più orecchiabile. Si può notare quindi una ricerca nuova, un qualcosa che poi naturalmente Fossati affinerà e raffinerà nel corso degli anni. Ed è anche, c'è anche da dire che questo tipo di, tra virgolette, conversione gli permette anche di essere apprezzatissimo da tantissimi, nella casa discografica, nella RCA, credo, sì, nella RCA, e lui fornisce una serie di brani importanti a una serie di cantanti, di interpreti che in quel momento vanno per la maggiore. Un'emozione da poco, ad esempio, di Anna Oxa e di Fossati, così come dedicato e scritto per la Bertè, Non può morire un'idea, la scrive per Mina, Mi vuoi, la scrive per Marcella Bella, Pensiero stupendo del 78 di Patti Pravo è veramente un suo, è il frutto dell'ingegno e della bravura di Fossati. Questo tanto per dire. E quindi, poi tra parentesi, intorno a Pensiero stupendo poi sono stati scritti fiumi, sono stati versati fiumi di inchiostro, e quindi, insomma, stiamo parlando anche di un autore che in qualche modo provoca, in qualche modo all'interno del tessuto sociale cerca nuove tematiche che poi colpirono il cosiddetto immaginario collettivo. Quindi dal 79 all'85 c'è questa virata verso il rock. E c'è infatti un famoso verso che fa parte del brano che ascolteremo dopo, che dice: di andare ai cocktail con la pistola non ne posso più, piña colada o Coca-Cola non ne posso più. Lo vedi com'è, finisce che cosa non va da sé, a morire ti resta dentro, si muove con te, cammina, respira la tua forza e sulla pelle scrive il nome che ti dà. Vedi com'è, lo vedi, l'uomo non va da sé, a morire si fa pensiero, si nutre di te, parla di te, ti compra la mente, fa saltare le difese, tacere le tue accuse, ti dà respiro giusto un'ora, poi ritorna ancora e ancora. Vuoi che viva e vive con te, vive, si apre dentro te, poi vive e aspetta da sé il tempo migliore per crescere ancora, finisce col tuo giorno e ricomincia. Quando tu non puoi mandarla via, non può morire un'idea, la fai morire e vive, vive, vive, tace in te, vive in te. Non può morire un'idea. E vi dicevo, questo è un brano bellissimo che adesso lo abbiamo ascoltato interpretato da Fossati, ma in effetti lui scrisse per Mina. È un bellissimo brano, insomma, se avete un po' messo l'orecchio lì, e magari se qualcuno non conoscesse questo brano, non avesse riconosciuto questo brano, è veramente un credo forse una prima prestazione veramente da artista, con la A maiuscola, e anche di cantautore, di autore con la A maiuscola di Fossati, che in effetti fino a quel momento non era conosciutissimo come interprete, era lo ricordavano appunto con gli Esael, con i Delirium, però poi erano passati un po' in sordina i suoi lavori da solista, ma era molto più apprezzato come compositore, autore per i suoi colleghi più importanti. qual è il pezzo, il brano che lo fa in pratica esplodere. E il brano che vi citavo prima, cioè quel brano che nel 79 lo consacra non solo come autore, ma anche come, come interprete. La mia banda suona il rock è stato il brano che ha dato la notorietà a Fossati. C'è da dire una cosa però, che Fossati questo brano un po' l'ha ripudiato, tant'è che nei tour poi in seguito lui non l'ha riproposto spesso, forse perché un po' troppo ruffiano, un po' troppo, come dicevo prima, anche commerciale, chi lo sa. Eppure è un intero 33 giri, quindi questa è la title track appunto del 33 giri, La mia banda suona il rock, inciso nel 78, poi edito nel 79, fu registrato nei Criteria Studios di Miami, quindi un studio abbastanza famoso. Perché? Perché lì in quegli studios registravano sia Eric Clapton che Stephen Stills, tant'è che a questo LP, quindi i musicisti che supportarono Fossati in questo LP erano proprio i musicisti, i turnisti, chiamati così, dell'entourage appunto di Clapton e Stills. E quindi è stato un 33 giri che in Italia e in Europa ebbe un grossissimo successo. Ma non solo per questo, per la title track, ma anche per altri brani tipo Dedicato e di nuovo Cambio Casa, Limonata e Zanzare, insomma un lavoro che denota anche le tantissime influenze che erano presenti all'interno appunto degli arrangiamenti, ecco, perché a livello compositivo poi lui fu, a mio avviso, ma anche avviso di tantissimi critici musicali, fu influenzato appunto molto sia dal luogo in cui venne registrato l'LP, sia anche dai musicisti che presero parte all'incisione. E quindi poi, ecco, la cosa che suona un po' strana è questa voglia da parte di negli anni seguenti poi di Fossati di mettere un po' da parte mettere da parte un po' questo grosso successo, perché non è stato amatissimo dal suo autore, ma proprio il brano in se stesso. Anche se poi si sta parlando dell'LP successivo, Panama e dintorni, appunto, continua questo percorso, no? Cioè quello di cominciare un po' a fondere le proprie esperienze musicali con altre esperienze musicali. Nel 33 Panama e dintorni, anche già il titolo del 33 richiama quelle ambientazioni che erano presenti anche nella mia banda suona il rock, e qui sono presenti arrangiamenti importanti del tastierista, molto anche lui influenzato dal soul jazz, Steve Robbins, che è uno di quelli che poi ha partecipato a lavori importanti di Robert Palmer, Sting e Irene Cara. Sin da Pavia si pensa al mare, sin da d'Alessandria si sente il mare dietro una curva improvvisamente. Che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare, e noi non ci sappiamo vestire. E noi non ci sappiamo spogliare. E noi non ci sappiamo raccontare quando è il momento raccontare nei bar davanti al mare. Le ragazze di Firenze vanno al mare, hanno tutte cuori da rivedere. Le ragazze di Milano hanno quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare. In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra, quando il vento raffredda il suo tempo, il... Perché questo brano che poi porta il nome di questi posti davanti al mare? Perché naturalmente dentro ci stanno le voci di De Gregori e De André, oltre a quella di Fossati, ed è un sunto un po' anche della poetica di Fossati. Come vi dicevo prima, no? Il viaggio e anche il mare, e non poteva essere altrimenti. Lui, nato a Genova come De Gregori, il mare ce l'ha nel sangue, anche e quindi il mare come via di comunicazione, come scambio, come interscambio. Noi qui abbiamo un piccolo detto dalle nostre parti. Noi diciamo che le ragazze che sono nate vicino qui sui posti di mare sono più belle, perché e c'è una verità in questo, nel senso che i posti di mare poi significano anche porti, significano approdo significa nuova gente, scambio anche di vedute, ma anche scambio di amori, anche nuove prospettive, ecco. E questo è stato sempre un po' il leitmotiv di Fossati, e a me faceva piacere riproporvi questo brano in cui De Gregori, De André e Fossati si esprimono, io credo si esprimono al meglio con questo arrangiamento diverso, perché l'arrangiamento originale di questo brano era un po' diverso. Dicevamo che il Fossati poi dopo La mia banda suona il rock si ripropone con Panama e dintorni, e poi naturalmente scrive quel bellissimo brano nello stesso anno che è La costruzione di un amore. Lui, anzi, no, meglio specificare. Questo brano lui ne l'aveva scritta nel 78 per la sua compagna Mia Martini, e qui ci sono una serie di leggende metropolitane, o leggende o verità, insomma, che riguardano appunto la storia tra Mia Martini e Fossati, la grande delusione d'amore di Mia Martini, innamoratissima quindi di Fossati, che poi viene lasciata da Fossati, e sembrerebbe che i guai per la povera Mia inizino proprio da quel momento. E, dicevo, nel 78 lui aveva scritto questo brano per Mia Martini, però poi negli anni 80, nell'80, 80-81, lo reinserisce in Panama e dintorni, e qui c'è questa bellissima ballata che poi spicca il volo in qualche modo, perché è veramente una descrizione stupenda, una descrizione anche veritiera, una descrizione che, come dice il testo, fa anche un po' tremare i polsi. Costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Del mio amore mi piace guardarla al salire, come un grattacielo di 100 piani o come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. E ad ogni piano c'è un sorriso, per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro una porta un po' d'amore, per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro l'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, sono qui e mi meraviglia tanto da mordermi le braccia, ma no, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi era sembrata finita, che è bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che è tutto vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro l'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, son qui e mi meraviglia tanto da mordermi le braccia, ma no, son proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. Sì. Ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. Sì. Beh, questa è una di quelle, questo è uno di quei brani che insomma ci siamo passati tutti su questo brano, credo, dagli anni 80 in poi. È un brano che è stato consumato, credo, da persone che magari erano colte da, da dispiaceri d'amore, o magari che stavano vivendo un nuovo amore. È sicuramente uno dei brani più famosi di Fossati, più ascoltati, anche se vi dicevo, no, del Fossati autore, anche se il suo brano più venduto, ad esempio, uno dei brani che ha fatto storia nella musica pop italiana, è quel Non sono una signora di Loredana Bertè. E lui era molto legato alle sorelle Bertè, alle due sorelle calabresi, e tant'è che si dice che il giorno che fece ascoltare in anteprima il brano alla Bertè, erano un po' tutti preoccupati perché non sapevano come l'avesse presa la stessa Loredana, insomma, questa, tant'è che la sorella gli preparò una mousse al cioccolato per tentare di addolcirla, rabbonirla nel credendo che poi lei avesse avuto una delle sue reazioni un po' scomposte. Invece poi Loredana fu subito colpita da questo brano e aveva capito la potenzialità del brano, perché poi vendette oltre 300 o 400 mila copie, insomma vinse il disco per l'estate, il Festival Bar, no? Il disco per l'estate non c'era più, e quindi sicuramente fu beneficiata da questo brano, come è stata beneficiata anche Fiorella Mannoia con i treni a vapore. Però ecco, adesso vi facciamo ascoltare un brano, anche questo che è un po' di svolta, perché è un brano degli anni 90, quindi del periodo anni 90 di Fossati. Mio fratello che guardi il mare, ritorna il mare, questa volta vista però un'ottica diversa. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi si troverà. Se non c'è strada dentro al cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, e il

dal passaggio da Lisbona a Porto e viceversa naturalmente per arrivare all'Algarve. Insomma, è una terra che ti colpisce e ti colpisce. Poi io posso capire Fossati, perché se uno arriva a Lisbona, credo che uno di Genova che arriva a Lisbona, credo che si senta a casa sua, e così come si sente a casa sua a Porto, no? Questa città che si sviluppa sulla collina, che poi scende verso il mare, quindi scende verso il porto e poi quindi si arrampica sulle colline e di colpo ci si trova di fronte al mare. Insomma, sono scenari bellissimi. Poi se si ha la fortuna di girarlo il Portogallo, no? Di prendere una macchina e percorrerlo in tutta la sua lunghezza, è qualcosa che incanta. E proprio da un viaggio in Portogallo nasce questo lavoro discografico di Scanto, da cui abbiamo estratto Mio fratello che guardi il mondo. È un album raffinatissimo. Ecco, adesso rispondo a Vincenzo che mi diceva un Fossati più intimista. Questo è un Fossati più intimista, più raffinato, che comunque non disdegna anche lui la contaminazione musicale, perché anche qui troviamo dei richiami alla world music. Io credo che i musicisti intelligenti non possano chiudersi in ambiti eccessivamente ristretti. E quindi non chiudersi in etichette o in linee musicali. Ormai la musica è molto più ampia, la cosiddetta globalizzazione credo che sia avvenuta prima a livello musicale e adesso è in itinere per quanto riguarda le altre cose. E quindi lui, come avete potuto sentire, ma anche nelle collaborazioni, poi è innegabile questo, le collaborazioni che lui ha, e sono tutti musicisti stranieri che partecipano a questa che partecipano al suo lavoro. Potete ascoltare benissimo queste influenze che poi hanno preso un po' il nome di world music, appunto musica del mondo, proprio perché credo non si possa dare un'etichettatura specifica. E lui è sia nella musicalità, vi dicevo, ma anche nel linguaggio, con una serie di richiami colti anche in questo Discanto, fa capire che è un suo momento di crescita artistica altissima. Tanto è vero che i brani contenuti in questo LP hanno tutti dei richiami culturali ben precisi, come ad esempio i versi della canzone Lunario di settembre e Confessioni arrivano da Alonso Chisciano. Poi c'è anche la storia di una donna condannata per stregoneria. Insomma, questo comincia a essere il Fossati più maturo, il Fossati più colto, più anche in qualche modo profondo, che ha trovato ormai la sua strada. Sogno, stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare.

quasi conterranea nostra adesso, perché sta con un lancianese da un po' di tempo. Dicevo, la Mannò insomma merita tutto questo, perché poi lei è bravissima anche nella scelta dei brani, insomma, diciamolo chiaramente, la Mannò è una che non ha mai sbagliato un colpo e si è affidata sempre a autori di caratura importante. E quindi ecco, come vediamo, stiamo distinguendo un po', o stiamo mischiando se volete, anzi forse stiamo mischiando di più il Fossati cantautore, artista, interprete con il Fossati autore, che come abbiamo visto è artefice di tantissimi successi della musica popolare pop italiana, anzi rock pop italiana, ma naturalmente ha fatto un percorso personale che lo ha portato sulle vette più alte della musica, e non solo della musica, perché comunque molti ricorderanno anche sue incursioni nel mondo letterario. Ad esempio il suo primo scritto risale al 1991 e ha per titolo Il Giullare. In una sua intervista lui dice: il giullare è una mia antica fissazione, un mio leggero incubo che riguarda l'inutilità dei mestieri come il mio, per dimostrare che in situazioni drammatiche l'artista non conta più nulla, la sua figura è superflua, la sua esistenza inutile. Questo è un po' l'incipit, questo è un po' il senso della sua prima opera letteraria, che porta appunto il nome di Il Giullare. E lui la presentò alla Fiera del Libro di Milano, credo, sì, di Milano, no, di Pavia. Ed è un racconto breve, un po' come quello che ha scritto il nostro Vincenzo. Quindi vedete le cose, le vite parallele dei musicisti, Vincenzo, Fossati. Credo che sia felice Vincenzo che l'abbia paragonato a Fossati questa sera. Intanto salutiamo Gabriela, che è sempre fedele ascoltatrice, Fiorisa anche. Beh, questo ci fa piacere. E tornando un po' a Fossati, lui poi rivela che tutta questa storia del Fossati scrittore nasce da un incontro che lui ebbe con Marcello Baranghini, che era uno di Stampa Alternativa, una casa editrice, e che gli chiese appunto di scrivere qualcosa. E lui dice: io non avevo mai pensato a questa eventualità, anzi ero anche abbastanza spaventato, anche perché in effetti lui esprime un concetto credo importante. Lui dice: io ero spaventato da questo lavoro di scrittore, perché noi cantautori, o comunque chi scrive per la musica, è abituato a sintetizzare in poche strofe, quindi in poche righe, un'intera storia, e poi magari ci si trova invece di fronte al foglio bianco e a doverlo riempire, anzi a doverne riempire più di uno per dar vita ad un racconto. E credo che sia però un esercizio bello, un esercizio anche importante per chi fa scrittura, per chi comunica attraverso sia la musica che la scrittura. Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato da altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre, inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare, stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle e poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con vedi pulito, pettinato, ho proprio l'aria di un campo rifiorito e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoni. Ti dico bella, che ci importa del mondo? Dentro le mie tasche poi perdonami, sorridi, guarda questo tempo che arriva con te, guarda quanto tempo arriva con te. Si rimane sempre un po' così, pensosi alla fine di un brano di Fossati, un qualcosa che dura anche oltre le note, un qualcosa che ti fa stare lì, sì, ti fa riflettere, ti fa anche, sì, ti fa pensare un po' al testo, non è mai banale. Ecco, io credo che Fossati, come i grandi artisti, non è stato mai banale nel corso della sua carriera, e questo il vero motivo, la differenza tra quelli bravi e quelli meno bravi, mettiamola così. E io sto un po' mischiando naturalmente date, momenti, perché non, siccome il programma si chiama Schegge, appunto, sono delle schegge impazzite, degli input che io vi do e che poi voi potete in qualche modo sviluppare, potete anche ignorare se volete, può bastare così, però ecco, io vi consiglio di andare un pochettino a scavare, perché viviamo in un mondo in cui purtroppo ci si ferma all'esteriore, tutto quello che patina e non si gratta. Come diceva un mio vecchio professore, sotto la notizia niente, un mio vecchio Sì, professore di giornalismo, lui diceva appunto sotto la notizia spesso non c'è niente, oppure sotto la notizia c'è qualcosa di talmente importante che però la gente non riesce a raggiungere. Questo è un po' il dramma dei giorni nostri. Noi non riusciamo ad andare oltre e non riusciamo ad andare in fondo o di andare sotto la notizia, sotto le informazioni che ci vengono date. Ecco, anche nel campo della musica credo che questa voglia di ricerca, di analisi, di comprensione ormai stia svanendo, quindi tutto subito, si consuma tutto velocemente. Ecco, il consumo è il consumare è il verbo più usato, consumare a tutti i costi, consumare nel senso di ascoltare frettolosamente, non soffermarsi, oppure non dare troppa attenzione a quello che ci viene propinato. Questo naturalmente fa sì che chi ci lavora su questo, perché sono tanti quelli che ci lavorano sulla comunicazione, noi in questo momento stiamo lavorando con la comunicazione. Noi in questo momento però stiamo andando un po' controcorrente, perché nel mio programma, nel programma di Vincenzo, noi ve lo diciamo sempre, noi cerchiamo di approfondire, vi diamo delle dritte che poi speriamo vadano a buon fine. E invece oggi come oggi questo discorso dell'approfondimento, no? Questo discorso dell'analisi non viene assolutamente percepita. L'ho detto più di una volta, le statistiche o comunque i report che mensilmente vengono fatti all'interno dei mezzi di comunicazione, quindi all'interno dei giornali web, delle radio, delle televisioni, dicono che l'attenzione massima che si dà a una notizia, a un messaggio, è di circa 8 secondi, questo anche su internet, 8 secondi per leggere una news. E con 8 secondi, come diciamo dalle nostre parti, possono anche far credere che il povero Gesù Cristo è morto di freddo. Torniamo invece alla nostra musica, ascoltiamoci questo brano splendido. Che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste e nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni, e grida nei mercati che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti e giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Ah, che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione. Ah, che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare, e tutte le campane andranno a cantare, e tutti gli inni insieme a consacrare, e tutti i figli insieme a purificare, i nostri destini ad incontrare, perfino il Padre Eterno da così lontano, guardando quell'inferno dovrà benedire. Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Bene, allora, dicevamo prima un po' di queste problematiche legate un po' al mondo della comunicazione, questa cosa credo che, di queste cose credo che se ne bisogna parlare, bisogna parlarne perché nonostante noi in questo momento stiamo parlando di musica, di un cantautore importante come Fossati, però comunque stiamo all'interno di un mezzo di comunicazione, che utilizza nuovi formati, perché fino a qualche anno fa i mezzi di comunicazione di massa erano appunto radio, televisione e giornali. E radio, televisione e giornali che naturalmente utilizzano dei codici completamente diversi, perché il giornale usa il codice della scrittura e quindi della lettura da parte di chi riceve il messaggio, e poi invece la radio usa sempre la lettura da parte di chi emette il messaggio, ma naturalmente l'ascolto da chi sta dall'altra parte, è quello che state facendo voi. La televisione un po' cambiò le carte in tavola, perché all'interno, oltre all'ascolto, c'era anche la visione, e la visione naturalmente, quindi l'immagine, cambiò tantissimo quella che era la percezione del messaggio, tant'è che, non so se vi ricordate, fino a qualche anno fa, fino a una ventina di anni fa, si diceva, per dare forza a una notizia, si diceva: guarda che l'ha detta la televisione, l'ha detto il telegiornale, quindi era sintomo di veridicità, e quindi non sempre vero. Posso intervenire? Come no? Ci mancherebbe. Questa si chiama, in termine tecnico, rimodulazione. La rimodulazione dell'evento televisivo, per quel che se ne voglia parlare, non scalfia affatto la radio. Chiudo. No, non scalfì la radio, però il problema era legato al linguaggio, nel senso che, fateci caso, noi lo notiamo anche adesso, se uno ascolta esclusivamente il cervello, è una questione proprio di biologica, il cervello non può assorbire più di un tot di byte. I byte sono le unità di misura dell'informazione, naturalmente. E in questo momento io sto lanciando dei messaggi, e naturalmente sto emettendo una massa di informazioni, quindi una massa di byte. E il cervello, oltre un certo punto, un certo numero di byte, non può andare. E naturalmente la parola detta, oltre alla parola, oltre all'immagine, è una montagna di byte, e questo significa che il cervello spesso si perde. Ora, internet e la web radio come è intervenuta? Perché noi diciamo, ad esempio, quando facciamo i report, ci rendiamo conto che Facebook ci aiuta molto. Ci aiuta molto perché naturalmente noi forniamo, oltre alla voce, forniamo anche l'immagine, che cattura molto di più l'attenzione dell'ascoltatore, però distrae anche molto di più. La novità di internet sta nel fatto che, a differenza di quello che accadeva prima, e quindi a differenza di quello che accadeva con la vecchia televisione, attualmente il fruitore può scegliere, e quindi può decidere anche addirittura, come fanno i nostri amici qui attraverso Facebook, di interagire con chi sta emettendo il messaggio. Quindi può anche cambiare le carte in tavola, può anche intervenire, può anche, e questa è una grande rivoluzione di cui credo che in questo momento non ci stiamo rendendo conto pienamente. In questo momento noi la stiamo subendo, la rivoluzione, perché, come dimostrano ad esempio gli scandali, l'ultimo scandalo di Facebook, qualcuno invece ci profila, e cioè i grossi social ci profilano attraverso i cosiddetti, anzi non tanto cosiddetti, così famigerati, le famigerate formule che poi ci dicono a che tipo di profilo apparteniamo, e credo che siano oltre 15 o 20 mila i profili standard creati dai social, quindi a cui ognuno di noi può appartenere, a più di un profilo naturalmente, che ne so, giovane, politicizzato, di razza nera, eccetera eccetera, quindi loro già c'hanno le loro schede. Questo, in questo momento credo che noi stiamo subendo questa rivoluzione, però spero fortemente che più in là noi riusciamo ad avere invece il buono di questa rivoluzione, quindi che riusciamo ad avere una nuova capacità di scelta, di libertà anche nel crearci, perché poi il gioco è sempre quello, nel crearci la nostra opinione privata. Che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Bene. Questo era un altro brano conosciutissimo del nostro Fossati. E stiamo quasi alla fine un po' di questa breve carrellata sulla vita artistica di Fossati, però prima di chiudere a noi tocca anche dare delle informazioni tecniche, chiamiamole così, perché in qualche modo siamo legati a doppio filo all'area marina Torre del Cerrano. Ormai lo sapete, questa è Radio Cerrano, che prende il nome appunto dalla torre e dal fiumiciattolo che scorre nelle vicinanze, appunto il fiume Cerrano, il torrente Cerrano. E perché dobbiamo ricordarvi, così come abbiamo fatto l'altro giorno nel programma con Vincenzo, che domenica 8 aprile dalle ore 9 ci sarà la pulizia del mare, delle spiagge, diciamo una pulizia straordinaria che promuove l'area marina e a cui partecipano una serie di associazioni no profit importanti, tra cui adesso non voglio dimenticare, insomma, tra i più importanti sono Italia Nostra, poi ci stanno pure quelli di Mare Vivo, la Protezione Civile, insomma la Protezione Civile di Silvi, è una serie di associazioni di volontariato, di volontari che partecipano a questo, ma naturalmente non bisogna essere iscritti a queste associazioni per partecipare, ma bisogna farsi trovare alle 9 di domenica mattina all'Info Point, che sta sulla spiaggia appunto dell'area marina, e quindi portare con sé un paio di guanti da lavoro. Poi le buste verranno fornite dagli organizzatori. Alle 9 ci ritrovo, qui ci sarà una piccola lezione di educazione ambientale, perché naturalmente c'è la possibilità di imbattersi in qualche nido di fratino, che questo è il periodo in cui cominciano a sgusciare, a venire fuori piccoli fratini, e voi sapete che l'area marina è famosa per la presenza dei fratini. Poi alle 10 sarà la consegna del materiale e la partenza per la pulizia della spiaggia e del mare, naturalmente dalla spiaggia soprattutto, che dalle ultime mareggiate insomma si è riempita un po' di detriti e di altro. Quindi mi raccomando, fatevi trovare, andiamo un po' tutti numerosi a questa bella manifestazione di civiltà soprattutto e di salvaguardia. Fa bene a tutti, poi fa bene non solo a chi ci verrà a trovare, ma fa bene anche a noi che frequentiamo spessissimo l'area marina. L'area marina protetta, tra parentesi, la torre è stata nel periodo di Pasqua è stata visitatissima, quindi insomma è anche il Museo del Mare, che tra parentesi adesso verrà anche ampliato, ha avuto molti visitatori grazie anche all'opera importante delle guide del Cerrano, che accompagnano sotto vari profili, quindi spiegano sotto vari profili storico, ambientale, eccetera, il parco marino. Bene, non mi rimane altro che salutarvi, ormai siamo alla conclusione, sono le 22:30 di questo 6 aprile 2018, schegge questa sera dedicato a Fossati, prima e dopo. Lo so, non sono stato esaustivo, ma non poteva essere altrimenti. Un'ora e mezza è difficile spiegare la storia di autori così importanti che hanno insomma suonato e scritto canzoni per oltre 30 anni, quindi noi in un'ora e mezza non potevamo ripercorrere tutto, però insomma credo di aver dato qualche, come dicevo prima, qualche input. Adesso se volete approfondite. Bene, vi auguro una buona serata e naturalmente questo è un brano ad hoc, chiudiamo con questo splendido brano, e cioè con Una notte in Italia. Thank you.